Biblioteche, ultima frontiera. Inchiesta sui presidi culturali nelle periferie. Dopo aver scoperto la storia delle biblioteche e aver capito l'importanza della loro presenza, specialmente in contesti come le periferie, dove la povertà economica e culturale è più forte e dove le biblioteche stesse fungono da punto di riferimento, raccontiamo la situazione bolognese. Quante e quali sono le biblioteche di quartiere nella nostra città? Ce lo spiega Adriano Bertolini, coordinatore delle biblioteche di quartiere di Bologna. Le biblioteche di quartiere appartenenti, insomma, all'ente comune di Bologna sono 11 e sono, diciamo, distribuite in maniera piuttosto equilibrata nei 6 quartieri in cui adesso la città è suddivisa. Quindi ce ne sono 3 nel quartiere Navile, che sarebbero la biblioteca Casa di Caula, nella zona lì dell'Arcoveggio, la biblioteca Lame Cesare Malservisi, che è proprio in via Marco Polo, quasi di fronte al centro civico, e la biblioteca Corticella, che invece è proprio in fondo nell'estrema periferia, vicino anche lì al centro civico. 2 in quello che adesso è diventato il quartiere San Vitale San Donato, che sarebbero la biblioteca Luigi Spina, collocata proprio al pilastro, e la biblioteca Scandellara, che è in via Scandellara, zona al di là di via Massarenti, diciamo così. Nel quartiere Savena c'è una sola biblioteca, che è la Natalia Ginzburg, che peraltro è quella più dimensionata, sia come, non tanto soltanto come superficie, ma proprio come volume di lavoro. Quartiere Porto Saragozza, che anche lì vi sono 2 biblioteche, la biblioteca Borges, via dello Scalo, in prossimità del quartiere, dentro al Giardino Lo Russo, e la biblioteca Oriano Tassinari Clo, conosciuta anche come Villa Spada, che è proprio nel parco della villa per andare su verso San Luca. Poi c'è il quartiere Borgo Reno, Borgo Panigale Reno, che si sono fusi, da Orlando Pezzoli, è la biblioteca del quartiere Reno propriamente detto, essendo collocata sopra al quartiere, proprio dove ci sono gli uffici del quartiere, nell'ultimo piano di quell'edificio, vicino al deposito degli autobus. Borgo Panigale invece in zona ex Villaggio Ina, centro borgo, proprio in fondo a Borgo Panigale. Mi sembra di aver detto tutti, ad eccezione della biblioteca Ruffilli, che è afferente, diciamo, al quartiere attualmente Santo Stefano, che è in vicolo Bolognetti, a 2 passi dal centro. Le attività che si svolgono nelle biblioteche di quartiere non si fermano al prestito di libri. I principali servizi, diciamo, che al di là delle attività istituzionali, prestito, consultazioni in sede, ricerche bibliografiche e tutto quello che riguarda, diciamo così, una tematica che ha a che vedere con la circolazione del libro, ci sono una serie di attività che non sono neanche tanto corollari, ma che riguardano promozione di iniziative culturali, navigazione in internet ormai quasi esclusivamente utilizzando il wifi e strumenti propri, soprattutto gli utenti giovani ormai navigano con strumenti propri, ma abbiamo anche macchine dedicate per questo. Attività di promozione alla lettura, un grande lavoro fatto, diciamo, in maniera capillare su tutti i territori con le scuole di ogni ordine grado, in prevalentemente scuole dell'obbligo, e anche con utenza libera nel pomeriggio, il sabato a volte. In ciascuna biblioteca di quartiere si propongono attività diversificate a seconda dei bisogni della comunità di riferimento. Diciamo che ogni biblioteca tende ad avere un rapporto privilegiato con quello che il territorio offre e chiede, dove si cerca di intersecare una proposta culturale di attività con quello che è presente dal punto di vista associativo piuttosto che dal punto di vista culturale già sul territorio. Quindi sì, ci sono delle attività che ogni singola biblioteca può proporre, poi una buona parte delle attività cerchiamo di farle in rete, nel senso di dire, se non tutte, per area geografica o per tematiche facciamo un'attività che coinvolga, facciamo un esempio, la scrittura autobiografica, il parlare di sé con i bambini delle scuole elementari. 6 biblioteche su 11 hanno fatto questo progetto proprio lo scorso anno, lavorando per 4-5 mattinate in ognuna di queste con delle esperte del tema e del settore, con le classi che andavano nella singola biblioteca. Poi vi sono, come dicevo, attività come ad esempio l'arte dell'ascolto, che è una cosa specifica che viene fatta nella biblioteca Lame, fatto da un gruppo di un'associazione di volontariato che si riuniscono una volta al mese e fanno un'attività appunto rivolta non tanto al parlare ma all'ascoltare, la capacità di essere recettivi. Dicendo, ma ci prestiamo soprattutto in alcune zone, penso al Pilastro, penso a tutta la zona del Navile, e a questo tipo di attività, l'alfabetizzazione, ecco, l'italiano per stranieri, svolgiamo corsi di italiano per stranieri, anche quelli fatti proprio in collaborazione con il Ministero, quindi con scuole che danno anche l'abilitazione della lingua, no? O anche con scuole volontarie convenzionate, facciamo in ogni struttura 1-2 corsi all'anno di italiano per stranieri, anche di diverso livello, di livello elementare, di livello un po' più evoluto. Abbiamo fatto fatto per diversi anni, quando soprattutto la richiesta era altissima, questo lavoro che si chiama Pane Internet, che è un progetto regionale, proprio di alfabetizzazione informatica per coloro che avevano soprattutto, diciamo, nella terza età, difficoltà a navigare, a conoscere la posta elettronica, che è una cosa che continuiamo tuttora a fare, utilizzando sia personale nostro che personale volontario. E cosa interessante, da un paio d'anni a questa parte, da quando esiste la cosiddetta buona scuola, insomma, la legge che prevede l'alternanza scuola-lavoro anche per i licei, con molti ragazzi di scuola superiore nel periodo del tirocinio obbligatorio che loro devono svolgere. Nella Biblioteca Lame, una delle 11 biblioteche di quartiere della città di Bologna, ad esempio, si realizzano molti progetti, come ci racconta Miriam Ridolfi, una volontaria della struttura. Questa biblioteca aggrega chi è volontario e vuole continuare nella sua opera di educazione o nella sua opera culturale, perché qui c'è appoggiato il Canzoniere delle Lame, o nella sua opera di alfabetizzazione, perché qui si fanno i corsi per gli stranieri che devono imparare le lingue, o di appoggio alla stessa scuola per problemi quali quelli che si devono affrontare in senso generale, del bullismo, della possibilità di realizzare canzoni, momenti finali di festa insieme, possibilità di realizzare qualcosa che certamente somiglia a tutto il suo significato di teatro. Non dingoi me cara na petacca de coppera na canta bureio, ammunna bureio, benida bal. Non dingoi me cara na petacca de coppera na canta bureio, ammunna bureio, benida bal. Cappa ammunna o te pasilu coli rudero rudero rudero lupa isbasso le benida bal e cal che cante cumo cal. Cappa ammunna o te pasilu coli rudero rudero rudero lua che sax e vera che lo bra che sui pasari va. Petacca de coppera na canta bureio, amunna o bureio, benida bal. Non dingoi me cara na petacca de coppera na canta bureio, amunna o bureio, benida bal. Cappa amunna o te pasilu cole rudelo rudelo rudelo lupa isbasso le benida bal e car che cante come cal. Cappa amunna o te pasilu cole rudelo rudelo rudelo agge sax e vera che lo bra che sui pasari bat. Cappa amunna o te pasilu cole rudelo rudelo rudelo lupa isbasso le benida bal e car che cante come cal. Cappa amunna o te pasilu cole rudelo rudelo rudelo lu agge sax e vera che lo bra che sui pasari bat. Secondo i dati dell'Istituzione Biblioteche di Bologna, l'ente giuridico creato nel 2008 per gestire le strutture cittadine, negli ultimi 4 anni gli ingressi nelle biblioteche di quartiere bolognesi sono aumentati molto, tra le 22.000 e le 30.000 presenze, nonostante il prestito sia in leggera flessione. Ciò significa che le persone non vanno in biblioteca solo per prendere libri. Basti un dato: nel solo 2016 le biblioteche di quartiere bolognesi hanno organizzato ben 509 iniziative. Negli ultimi quattro anni. Per quello che riguarda i quartieri, c'è stata una leggerissima flessione nell'ultimo anno rispetto ai prestiti, ma proprio nell'ordine di poche migliaia di unità, ma dovute prevalentemente a un problema che era legato all'acquisto dei libri. I giorni di apertura sono rimasti pressoché invariati, viaggiano tra i 283 e i 285 giorni di media fra le 11 biblioteche di quartiere, giorni di apertura intera intendo. Poi gli ingressi sono fondamentalmente aumentati molto negli ultimi tre anni, dal 2013 al 2015 c'è stato un significativo aumento e una leggerissima flessione nel corso del 2016, dovuta anche questo credo a cause legate anche un attimo alla carenza di materiale nuovo. Ecco, abbiamo avuto un momento di difficoltà nel rifornire di novità editoriali e questo penalizza soprattutto una biblioteca di pubblica lettura. Tutto sommato, in un momento di generalizzato di crisi della finanza pubblica e di contrazione della spesa, non possiamo dire che sia per noi negativo, anzi. L'utenza è assolutamente trasversale, abbiamo un'utenza prevalentemente o molto giovane, siamo nella fascia zero per intendersi, proprio bambini molto piccoli fino alla scuola dell'obbligo, una fascia di utenza elevata, di età alta, sopra i 50-55, anche con molti grandi anziani che frequentano. Il punto dolente, diciamo così, ma questo non è solo delle biblioteche di quartiere, è un problema delle biblioteche in Italia, è la fascia quella intermedia, dalla fine diciamo dell'età di studio universitario fino ai 40-45, quello è forse la fascia meno rappresentativa, però sono toccati tutti trasversalmente, con picchi molto alti in determinati punti. Poi abbiamo, ovviamente essendo città universitaria, alcune biblioteche, quelle che ruotano soprattutto intorno alla zona diciamo del centro, con una utenza universitaria molto molto significativa, numericamente parlando, che utilizza la biblioteca in maniera un po' differente dall'utente residente, nel senso che hanno necessità di avere sale studio, luoghi dove poter studiare, fare uso di testi per consultazione, avere una buona connessione internet, visto che molte cose oggi le hanno caricabili o consultabili su siti o su pagine dell'università, e in alcune strutture, penso a Villa Spada, la Borges, per dire, l'utenza è quasi la metà universitaria. Anche a Bologna, dunque, le biblioteche nelle periferie sono un punto di riferimento fondamentale. Le biblioteche di quartiere sono un centro di comunità, dove più, dove meno, ma questo funziona. Cioè dove ci sono in alcune zone, soprattutto nelle zone chiamiamole un po' più periferiche, un po' più distanti da quello che può essere l'attività peraltro estremamente intensa, ricca di questa città, culturalmente parlando, socialmente parlando, diventano un'agenzia culturale importante, non tanto e soltanto perché prestano libri, che comunque è un'attività imprescindibile, al di là di quello che oggi succede, prestito digitale piuttosto che navigazione, eccetera, eccetera, dicevo che diventano un punto di riferimento per domande, proposte, momenti di socializzazione, sì, credo proprio di sì. Attraverso la cultura, nelle biblioteche si lavora per la coesione sociale. Premettendo che Bologna non è anche pilastro nel Bronx, insomma, non siamo a questi livelli di periferia estrema e degradata, capisco che ci sono, e mi rendo perfettamente conto che ci sono problemi diversi tra quartiere Saragozza piuttosto che il quartiere che è il pezzo del pilastro, ovviamente, ma la biblioteca in quei luoghi funge, sì, non dico da rifugio perché non è questo, però da luogo dove si propone un momento per trascorrere del tempo libero in maniera non dispersiva, con una grande difficoltà perché sono lavori complessi, insomma, noi siamo fondamentalmente dei bibliotecari, non è che siamo degli assistenti sociali, degli operatori, anche se in un certo qual modo ci attrezziamo per quello, ma con quello che tentiamo di fare, mettendo anche in campo progetti ad hoc, soprattutto per dire, parlando del pilastro, un'iniziativa che da tre anni e mezzo, quattro, facciamo con un pacchetto di interventi, di iniziative rivolte proprio allo 0-14, che significa bambini dalla scuola nido, soprattutto scuola dell'infanzia, elementare, scuola media, un pacchetto di interventi che sono di animazioni, letture condivise, presenza con i genitori, produzione anche di qualcosa alla fine del lavoro fatto, hanno permesso di avere un pubblico più stabile, di avere una fidelizzazione, brutta parola, ma insomma per capirci, di persone che sono diventate utenti abituali della biblioteca, che quindi diventano a loro volta sia tra virgolette dei procacciatori di altro pubblico e nello stesso tempo, affezionandosi al luogo, lo tutelano, lo rendono più vivibile, più visibile. Sì, questo assolutamente sì. Siamo in determinati luoghi un riferimento culturale, ma anche, diciamo, se vogliamo dirlo in maniera traslata, anche sociale in senso più lato. Thank you. Il Comune di Bologna investe ogni anno nel sistema bibliotecario più di 11 milioni di euro, di cui poco meno della metà, cioè 4 milioni e 3, per le biblioteche di quartiere. Fra gli anni 2013 e 2016 è stato realizzato un ampliamento degli orari delle biblioteche e oltre all'apertura il lunedì della centralissima sala borsa, si è effettuata l'apertura al sabato pomeriggio nelle biblioteche di quartiere. Un impegno sia in termini economici che di servizio che è rimasto costante, come spiega Adriano Bertolini, coordinatore delle biblioteche di quartiere. Le biblioteche di Bologna, in assoluto il budget fondamentalmente è rimasto grosso modo invariato in questi anni. È calato all'inizio della fase, chiamiamola, del patto di stabilità, dei minori trasferimenti, tutta una serie di coordine di 7-8 anni. In questi anni è rimasto fondamentalmente stabile. Per quello che riguarda almeno le biblioteche di quartiere non abbiamo avuto significativi tagli, non abbiamo avuto incrementi. Questo diventa problematico rispetto all'aumento di determinati costi e a un invecchiamento del nostro personale, che è il punto vero momento diciamo di crisi rispetto alle pubbliche amministrazioni e la difficoltà di assunzione. Questo è una cosa che taglia trasversalmente la pubblica amministrazione, cioè si può assumere soltanto quando uno su cinque, che sono un attimo terminate queste cose, ma negli anni scorsi questo ci ha in parte non dico penalizzato, ma ci ha costretto a ridimensionare un pochino quella che è l'attività o la possibilità di innovare fortemente all'interno delle strutture. Pur non avendo mai fatto calare il livello di attenzione e non avendo mai manifestato segni di crisi profonde, insomma, noi abbiamo sempre tenuto aperto e i servizi essenziali abbiamo sempre garantiti, ecco. Non si pensi però che le biblioteche a Bologna in Italia abbiano avuto vita facile. Innanzitutto non è facile capire quanto lo Stato italiano investa sul sistema bibliotecario, come ci spiega Rosa Maiello, presidente di AIB, l'Associazione Italiana Biblioteche. Fare una stima complessiva diventa difficile. Su questa faccenda dei dati l'AIB ha lavorato molto negli ultimi anni e intende continuare a lavorare, perché non è che non esistano, esistono e magari sono anche ben esposti, sono pubblici, ma sono disseminati in sedi diverse. In realtà nel nostro paese manca un progetto politico ed economico che dia alle biblioteche la centralità e l'importanza che hanno saputo conquistarsi. Bisogna dire che sulle biblioteche da tempo si investiva poco e a macchia di leopardo. Politiche per la promozione della lettura, politiche per la realizzazione di biblioteche efficaci ed efficienti come parte fondamentale dell'infrastruttura culturale del paese mancano da tempo. Io negli ultimi tempi ho partecipato a un convegno che celebrava la intitolazione della biblioteca del Ministero dell'Università a Luigi De Gregori, che è stato un grande bibliotecario del secolo scorso e che quasi un secolo fa denunciava lo stato di abbandono delle biblioteche e l'assenza in Italia di una rete di biblioteche di pubblica lettura paragonabile a quella che c'è in altri paesi a biblioteconomia avanzata. Oggi naturalmente noi ci lamentiamo, ma la situazione è molto migliore rispetto a un secolo fa e questo è motivo di ottimismo, però non si può sottacere lo scarso investimento, ecco, culturale e politico prima ancora che economico sulle biblioteche, che è un fenomeno non soltanto degli ultimi tempi, che è un tema purtroppo ricorrente, insomma non c'è questa forte consapevolezza. Le biblioteche in Italia, e per questo dico forse proprio il grande patrimonio culturale di cui dispongono, in parte anche il limite, uno dei motivi per i quali sono state associate soprattutto alla ricerca avanzata, agli studi storici e non ai servizi pubblici, non a qualcosa che fa parte della vita dei cittadini, in settori che già dopo una stagione di risveglio delle politiche del welfare negli anni 70 hanno cominciato un po' a patire. In questo quadro sicuramente le biblioteche, insomma, risentono più di altre entità di questo disinvestimento. Le biblioteche negli ultimi anni hanno sofferto anche una legislazione che le ha penalizzate. Da un lato il patto di stabilità con il blocco del turnover, che ha ridotto il personale poiché non venivano sostituite le persone che andavano in pensione, dall'altro l'abolizione delle province, che ha creato un caos anche organizzativo. Il blocco del turnover, che ha un po' colpito molti settori del pubblico impiego, nel nostro settore è stato davvero devastante. Altri fenomeni, come quello che lei citava della soppressione delle province, in pratica la legge del Rio non ha regolato cosa doveva succedere poi, eliminando alcune competenze competenze in capo alle province, quindi ad esempio i servizi culturali a chi dovevano passare, alle regioni, ai comuni, eccetera, e quindi si sono cercate soluzioni che in alcuni casi, in alcune città, sono state individuate con il concorso di tutte le amministrazioni coinvolte, quindi i comuni per le reti bibliotecarie provinciali e le regioni, e in altri casi ancora stentano, insomma. Tenete bene a mente il problema del blocco del turnover, perché nella prossima puntata capiremo che tipo di politica ha generato, o meglio, che genere di pretesto ha rappresentato per un certo tipo di politiche. Di sicuro, il blocco del turnover ostacola il rinnovamento all'interno delle biblioteche stesse. Realtà che funzionano e funzionano bene ce ne sono. Il problema è che appunto i bibliotecari invecchiano, se non c'è turnover invecchiano sempre di più, e quelli più motivati sono spesso i giovani, che hanno anche più energie ed entusiasmo e che purtroppo appunto arrancano oggi in un mercato del lavoro così selvaggio, quindi tante belle intelligenze, tante energie che potrebbero, come dire, assicurare la vita delle biblioteche e anche lo sviluppo, l'innovazione nelle biblioteche spesso rimangono ai margini di questi circuiti. Che Ultima Frontiera torna domani alla stessa ora. Se desiderate riascoltare le puntate, sul sito radiocittafujiko.it è disponibile il podcast. A domani!